Non aver paura della droga è solo una parola. È una sostanza organica. La droga è solo uno scandalo. La droga è sempre uno scandalo per chi la usa, per chi la vende, per chi ne abusa, per chi non sa niente, per chi ha paura di essere un delinquente. Aver paura della droga è solo una parola, è una sostanza organica.